Giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Da oggi a sabato Trieste diventa capitale mondiale dell'istruzione con il G7 dei ministri provenienti da tutto il mondo. Per l'Italia quello dell'istruzione Val di Tara. Ieri sera a Lignano il prologo con il via al vertice Young. Scattano i provvedimenti per la viabilità. Nel carcere di Gorizia un detenuto aggredisce e ferisce 5 agenti penitenziari. La protesta dei sindacati. A Udine è proclamato il lutto cittadino per la morte dell'imprenditore giapponese Shinpei Tominaga, intervenuto per sedare una lite tra giovani in centro e colpito dal pugno di un giovane. Nel risultato poi fatale, il cordoglio dei rappresentanti istituzionali. Filone cinese nella rotta balcanica, illustrate dalla procura antimafia due operazioni contro l'immigrazione illegale e su un traffico di cinesi senza documenti diretti in tutta Italia per essere sfruttati. A Clauzetto testato il sistema d'allarme pubblico IT Alert, esercitazione della protezione civile con allerta telefonica dei cittadini che avvisava del collasso della diga del Tulle e di una possibile alluvione improvvisa. Deulofeu lascia l'Udinese, separazione consensuale. L'attaccante spagnolo affida ai social il suo saluto ufficiale, ma non è escluso un suo ritorno al termine dell'infortunio. Le 7:19 minuti e 30 secondi, questi titoli. Buongiorno da Giorgio Bearzi e Francesca Terranova in studio a condurre questa prima edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia di giovedì 27 giugno. In apertura diamo come sempre uno sguardo alla situazione del meteo e alle previsioni per oggi. La nuvolosità è attualmente variabile sulla regione. Queste le temperature registrate alle 6. A Trieste 20 gradi e mezzo, il mare quasi calmo con temperatura di 23 gradi. A Udine 18 gradi, a Gorizia e Pordenone 17 gradi e 5 decimi, a Tolmezzo 12 gradi e 5 decimi, a Forni di Sopra e Tarvisio 11 gradi e mezzo, a Sappada 10 gradi e 5 decimi, a Piancavallo 10 gradi. Sul Monte Zoncolano 11 gradi e mezzo, a Grado 20 gradi e 5 decimi, a Lignano 20 gradi e la temperatura del mare è di 23 gradi e 5 decimi. Queste le previsioni dell'ARPA del Friuli Venezia Giulia, il cielo in genere variabile con più sole su bassa pianura e costa. Dal pomeriggio possibili rovesci sulle Alpi e qualche temporale sulle prealpi che in seguito potranno interessare anche qualche zona di pianura. Venti di brezza. Da oggi a sabato dunque a Trieste si svolgerà il G7 dei ministri dell'istruzione, cui parteciperanno un centinaio tra ministri e delegati da tutto il mondo. Sarà un'occasione di confronto e di dialogo finalizzata a rafforzare la cooperazione educativa a livello internazionale e sulla necessità di rafforzare anche la cooperazione per innovare i sistemi di istruzione, affinché sia possibile far acquisire ai giovani le competenze adeguate per i mercati del lavoro futuri e per sostenere lo sviluppo economico e sociale delle nazioni. La riunione di 4 giorni dedicati all'istruzione, che ha avuto ieri sera un prologo a Lignano Sabbiadoro con il via al vertice Young, sarà preceduta dal ministro dell'istruzione del merito Giuseppe Valditara ad accogliere questa sera i big del G7 che renderà Trieste la capitale mondiale dell'istruzione. Sarà un blindatissimo castello di Miramare per un cocktail di benvenuto seguito da una cena di gala per i circa 100 delegati. Oltre ai ministri dei paesi G7, quindi Italia, Francia, Germania, Regno Unito, Canada, Stati Uniti e Giappone, sono attesi i rappresentanti dell'Unione Europea, dell'Unione Africana, dell'OCSE, UNESCO e UNICEF. Saranno presenti anche i ministri dell'istruzione di Ucraina e Brasile, per un totale di 17 capi delegazione e oltre 100 partecipanti. Due, i cardini del confronto, valorizzare i talenti individuali e avvicinare la formazione alle competenze richieste oggi dal mercato del lavoro. Per motivi di sicurezza, da mezzogiorno sarà vietato percorrere con mezzi di trasporto la diramazione laterale di Viale Miramare che porta al castello. Vietata per tutti e 3 i giorni del G7 anche la navigazione negli ambiti portuali, nella rada di Trieste e nel tratto di mare antistante l'area marina protetta di Miramare. Le rive saranno invece chiuse da domani mattina fino a sabato sera. In occasione del forum G7, la Capitaneria di Porto, Guardia Costiera di Trieste, su disposizione della Questura di Trieste per motivi di ordine pubblico, ha emesso l'ordinanza con la quale sono stati adottati dei divieti temporanei di navigazione negli ambiti portuali, nella rada di Trieste e nel tratto di mare antistante l'area marina protetta di Miramare, proprio per garantire la regolarità dello svolgimento dell'evento. In vista del summit, l'Assemblea Pubblica contro il G7 ha annunciato una contromanifestazione in programma domani alle 18 in Piazza Libertà, sempre a Trieste, per discutere insieme, per proporre un'altra visione dell'istruzione, della scuola e dei suoi reali bisogni. Tante le adesioni pervenute, fra le quali COBAS, Scuola, Trieste Gorizia e FLC CGL Trieste. E un altro appuntamento internazionale in programma oggi in regione. Ambasciatori, consoli, sindaci, direttori di GECT, delegati, oltre 50 rappresentanti istituzionali parteciperanno a Gorizia all'evento clou del secondo meeting europeo delle città transfrontaliere organizzato dall'associazione Mittele Europa, mentre per domani a Nova Gorizia è prevista la presentazione del programma Go 2025. La cronaca registra una nuova grave aggressione nei confronti di agenti penitenziari, questa volta accaduto appunto nel carcere di Gorizia, dove un detenuto con problemi psichiatrici ha aggredito alcuni agenti. 5 di loro sono dovuti ricorrere alle cure dei sanitari, con referti che vanno dai 10 ai 35 giorni di prognosi. Dura la reazione dei sindacati. Un detenuto di 29 anni, nato in Italia da famiglia di origine serba, con problemi psichiatrici, trattenuto a Gorizia da oltre 2 anni per reati di natura sessuale in trattamento farmacologico, dopo un incontro con lo psicologo si è scagliato contro un agente penitenziario che ha subito chiamato i soccorsi, 5 gli agenti contusi. Sentiamo Pietro Pittaro, garante regionale dei diritti della persona. Quando sono stato il mese scorso in visita a Gorizia, come le altre carceri, ho trovato un'atmosfera estremamente tranquilla e serena. Devo dire che questo soggetto, che è un protetto, cioè un sex offender, e tutti i sex offender sono a Gorizia, ogni tanto aveva dei problemi psicologici con degli scatti repentini di violenza sulle cose. E per questo era stato mandato da Gorizia, tempo fa, al centro di osservazione penitenziario di Verona. È rimasto lì alcuni mesi, è stato compensato ed è ritornato a Gorizia. E ieri, improvvisamente, ha avuto questo scatto di violenza sulle cose ed era accompagnato da un agente della polizia penitenziaria che è rimasto sorpreso, ha cercato di fermarlo e invece il soggetto si è rivolto contro di lui. Gli altri agenti sono venuti a dargli manforte, è venuto fuori un parapiglia e alcuni, quei 5 sappiamo, sono rimasti contusi. Dopodiché il soggetto, come succede da sempre nel suo caso, si tranquillizza di colpo, prende pure le medicine che deve fare e come se niente fosse successo. Il detenuto è ora in attesa di essere trasferito in altro istituto. Giovanni Altomare, segretario regionale del sindacato autonomo Polizia Penitenziaria. Io credo che purtroppo questi sono soggetti che dovrebbero stare ristretti non negli istituti penitenziari ma nelle cosiddette REMS, che comunque sia sono limitate rispetto al numero di detenuti psichiatrici che ci abbiamo, anche perché là c'è personale molto specializzato per affrontare questo tipo di soggetti. Gorizia, Maurizio Mervar, TGR Friuli Venezia Giulia. Profondo cordoglio e sconcerto a Udine non solo per la morte di Shinpei Tominaga, l'ingegnere giapponese 56 anni intervenuto per sedare una lite tra giovani nella notte di venerdì in centro quando è stato colpito da un pugno, risultato poi fatale. Intanto con la morte di Tominaga è cambiato il reato ad omicidio preterintenzionale e si aggravano le posizioni dei 5 arrestati, in particolare del 19enne veneto Samuele Battistella, che ha confessato di aver sferrato il pugno mortale. Per lui l'accusa è ora di omicidio preterintenzionale. A Udine è stato intanto proclamato il lutto cittadino ed è scattata l'ordinanza anti-alcol. Dopo aver indetto il lutto cittadino, il sindaco De Toni insieme al vice sindaco Venanzi ha avuto un incontro in forma riservata con la moglie di Tominaga, Kinatsu, e il figlio di 13 anni, ai quali sono stati ribaditi la vicinanza dell'amministrazione di tutta la città ai familiari e il totale supporto del comune alle necessità della famiglia. Tra le innumerevoli attestazioni di cordoglio, quelle del ministro per i rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani. Sacrificio e senso civico di Tominaga non saranno dimenticati. Il sacrificio di Tominaga deve spingerci tutti ad agire con sempre più fermezza e determinazione per garantire la sicurezza dei cittadini, così il presidente della Regione Fedriga. Mi stringo con sincera vicinanza alla famiglia e agli amici di Shinpei e ho l'intenzione di promuovere ogni passo affinché lo Stato italiano ricordi la sua vita e il suo altruismo, ha detto Fedriga. Cordoglio è stato espresso anche dall'arcivescovo Riccardo Lamba. Ancora una volta una creatura che si era frapposta per fermare la violenza è rimasta vittima di quella stessa violenza. L'USBI, nell'esprimere vicinanza e cordoglio alla famiglia e ai colleghi di lavoro di Islam Mia, operaio d'origine bengalese dipendente della ditta SAIT, morto lunedì scorso nel cantiere navale di Fincantieri a Marghera, ha proclamato per oggi 2 ore di sciopero delle maestranze operanti a Monfalcone fino alla fine di ogni turno di lavoro. Questo ennesimo incidente mortale si aggiunge al crescente aumento dei morti sul lavoro già registrati quest'anno, che evidenzia ancora una volta, è detto in una nota, una carenza generale sul piano della salute e della sicurezza nei posti di lavoro e nella fattispecie anche all'interno degli stabilimenti Fincantieri, dove evidentemente si continua a non fare abbastanza tutela delle maestranze impiegate. Rotta balcanica, fototrappole sul Carso individuano passeri e migranti, 30 al giorno, scoperta anche una tratta di cinesi irregolari. I risultati delle indagini illustrate dalla direzione distrettuale antimafia della Procura di Trieste, che ha operato in collaborazione con la Polizia di frontiera. La rotta è la stessa, quella balcanica. A percorrerla non solo afghani, bengalesi e siriani, che rappresentano la quota maggiore degli ingressi, ma anche immigrati irregolari cinesi destinati a una schiavitù a tempo in laboratori e sartorie fino al rientro nel loro paese. È la situazione fotografata da 2 distinte operazioni coordinate dalla Procura di Trieste, Direzione Distrettuale Antimafia, che hanno condotto all'arresto complessivamente di 17 persone per favoreggiamento dell'immigrazione irregolare, portando a 82 il totale degli arresti dal 21 ottobre. 77, comprese donne e minori, gli irregolari individuati dalla polizia di frontiera nell'operazione Chinese Shuttle, che ha sgominato un'organizzazione cinese che portava i connazionali in aereo fino in Serbia e poi in macchina attraverso Bosnia, Croazia e Slovenia fino in Italia, in una casa nelle campagne di Cazzago di Pianiga in Veneto con 27 posti letto, per poi essere smistati in tutta Italia, in particolare fra Milano e Prato, ma anche in Spagna e Francia, e impiegati in attività nelle quali lavorare senza documenti e senza identità. L'operazione ha portato all'arresto di 9 cittadini cinesi e a 27 denunce in stato di libertà, rinvenuti nell'immobile anche 10.000 euro nascosti nelle prese elettriche, 86 documenti autentici e contraffatti e 22 carte di credito. 8 invece gli arrestati nell'operazione Abisso 2024 della Polizia Locale di Trieste. A quanto emerso dalle indagini, utilizzavano la pista ciclopedonale Orlec Trebiciano sul Carso triestino per condurre in Italia migranti per lo più di provenienza medio orientale. Li accompagnavano a piedi i cosiddetti camminanti o in macchina. 30 quelli che ogni giorno varcavano il confine, circa 10.000 in un anno. Per il trasporto avevano pagato fra i 6 e gli 8.000 euro ciascuno, diretti nei paesi del centro-nord Europa. Quanto ai passeri, il loro reclutamento avviene sempre più attraverso i social, rendendo difficile risalire ai livelli superiori. Trieste, Lara Zanni, TGR Friuli Venezia Giulia. Riunione della Commissione Salute con gli assessori competenti di tutte le regioni ieri a Villa Manin in vista della conferenza delle regioni in programma oggi. Quella di ieri è stata una riunione politica, o meglio un confronto sui problemi della sanità, che ha avuto 2 punti centrali di discussione: il decreto liste d'attesa emanato di recente dal governo e il riparto risorse fondo sanitario per l'anno in corso. Inizia questa mattina a Villa Manin di Codroipo una 2 giorni dedicata all'applicazione dell'intelligenza artificiale in ambito sanitario, con un focus sugli aspetti etici della governance delle aziende sanitarie. Questo laboratorio, chiamato Sanità e Intelligenza Artificiale, vuole essere un appuntamento annuale sul tema per condividere e valutare con esperti nazionali ed europei, manager pubblici e privati, istituzioni, professionisti della sanità e partner tecnologici le opportunità e i rischi nell'applicazione dell'intelligenza artificiale alla sanità. Oltre alle istituzioni politiche nazionali e regionali, dirigenti di aziende sanitarie da varie regioni, professori universitari, interverranno fra gli altri anche Christine Elizabeth Brown, dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, direttrice europea degli investimenti nella salute, e Domenico Mantoan, direttore generale di Agenas, l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali. All'Ospedale Maggiore di Trieste è stata inaugurata l'aula didattica del reparto di nefrologia dedicata alla memoria del cavaliere Leo Udina. La malattia renale cronica coinvolge circa il 7% della popolazione italiana e spesso coesiste con altre patologie croniche come il diabete e le malattie cardiovascolari. Il suo decorso è frequentemente subdolo, asintomatico e può condurre in una parte dei casi alla necessità di trattamenti avanzati come la dialisi e il trapianto. La diffusione della conoscenza, la formazione dei sanitari, il continuo aggiornamento delle pratiche e la formazione di reti cliniche sono i pilastri della prevenzione del trattamento delle malattie renali e sono sostenuti dall'alleanza tra sanitari, istituzioni e associazioni dei pazienti. Per tutti questi motivi, sostiene il dottor Vittorio Di Maso, l'impegno costante della struttura complessa di nefrologia di dialisi di Trieste è quello di garantire la continuità assistenziale assicurando la centralità del paziente e la personalizzazione delle cure anche attraverso il costante coinvolgimento dei malati e dei loro familiari. A Clauzetto è stato testato il sistema di allarme pubblico IT Alert, l'esercitazione della protezione civile con allerta telefonica dei cittadini che avvisava del collasso della diga del Tulle e di una possibile alluvione improvvisa. Alle 12.19 il cellulare suona, è un segnale d'allarme. Sullo schermo il messaggio IT Alert, esercitazione collasso diga del Tulle, possibile alluvione improvvisa, in italiano e in inglese. Si tratta di un test fatto in zone circoscritte di tutta Italia dalla Protezione Civile. Il Friuli Venezia Giulia ha scelto la vallata montana, compresa tra Clauzetto e San Giorgio della Richinvelda, area della destra a Tagliamento, immaginando la rottura di una piccola diga. Giuliano Cescutti, sindaco. Lo scenario immaginato evidentemente è quello di un cedimento strutturale del manufatto, dovrebbe venire giù tutto quello che c'è dietro. In questo momento più materiale inerte che non acqua, quindi creazione di una ondata che si propagherebbe lungo il torrente Cosa, scendendo attraverso Castelnuovo, Travesio, le Stanze, per poi arrivare a lambire Spilimbergo e quindi portarsi nel Tagliamento a Valle di Spilimbergo. L'obiettivo dell'esercitazione è verificare che a fronte di una scarsa copertura telefonica il messaggio arrivi ovunque. Ha ricevuto l'alert? Sì, certamente. Sapeva che c'era questa esercitazione? No, assolutamente. Ha preso paura? No. Ha ricevuto l'alert? Sì, speriamo che non mi rovina il telefono. Sarà l'esito del questionario a dirci se il test è riuscito. Peccato non ci sia un link diretto dal messaggio d'allarme alla pagina dedicata. Serve collegarsi al sito web IT Alert per esprimere un giudizio. La diga di Tulle si trova a pochi metri dalla profonda frana di Clauzetto. Il crollo lo scorso novembre, la strada chiusa per mesi, riaperta a marzo dopo un'azione di forza del sindaco che aveva minacciato le dimissioni. Resta però ancora chiusa la notte. Va riaperta 24 ore, ne abbiamo assolutamente bisogno. La Protezione Civile sta installando la derivazione elettrica. A giorni ci attendiamo che anche DR installi i suoi proiettori e quindi si riapre la strada sulle 24 ore. Clauzetto, Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia. Le Fiamme Gialle hanno festeggiato il 250° anniversario della fondazione del Corpo. A Trieste la cerimonia regionale, celebrazioni anche a Udine, presso la Loggia degli Onello, alla presenza delle autorità civili e militari. Un'occasione anche per fare un bilancio dell'attività svolta in vari campi. Contro la criminalità, tutela di cittadini e imprese per contrastare gli illeciti economico-finanziari e poi il contrasto delle frodi e dell'evasione fiscale. Nel 2023 le Fiamme Gialle, con le attività ispettive, hanno consentito di individuare 114 evasori totali. 153 lavoratori in nero o irregolari. Scoperti inoltre 5 casi di evasione fiscale internazionale, principalmente riconducibili a stabili organizzazioni occulte. Sono stati inoltre segnalati all'Agenzia delle Entrate crediti d'imposta agevolativi in materia edilizia ed energetica inesistenti o ad elevato rischio fiscale, nonché sequestrati beni, profitto di evasione e frodi fiscali per un valore di quasi 126 milioni e 900 mila euro. Ai confini terrestri, marittimi e aerei sono stati eseguiti inoltre 92 controlli sulla circolazione della valuta, con la scoperta di movimentazioni illecite per oltre 1 milione di euro. Parliamo ora di trasporto in mobilità e di biciclette in modo particolare. Nel report pubblicato 2 giorni fa dalla Corte dei Conti emerge tutto il ritardo del sistema nazionale delle 10 ciclovie turistiche e degli interventi a sostegno della ciclabilità cittadina, con riflessi critici sulla gestione delle ingenti risorse messe a disposizione tra il 2018 e il 2023. Capacità di spesa ridotte e scarso controllo centrale delle risorse e delle procedure, auspicando anche la collaborazione con il Ministero dell'Economia e Finanza. Due le ciclovie turistiche che interessano direttamente la nostra regione: l'Adriatica, che parte da Lignano-Sabbiadoro e arriva al Gargano, e la Trieste-Lignano-Sabbiadoro-Venezia lunga 150 chilometri. Siamo dunque una regione a misura di biciclette, se ne parla questa sera alle 20.30 in convegno all'interno del municipio di San Vito al Tagliamento. Intervengono esperti e addetti ai lavori, fra questi una grande appassionata delle due ruote, l'architetta goriziana Fabia Cabrini. Sentiamo. Siamo davvero molto carenti. ma quello che io vedo frequentando un po' la Slovenia, l'Alto Adige e l'Asia, perché io sono una ciclista, osservo che non c'è proprio una cultura, un interesse vero per riciclabili, casa, chiesa, scuola, come le chiamo io, che sono quelle che dovrebbero essere usate quotidianamente. Si percepisce che non c'è un interesse perché anche le opere non vengono fatte bene e quando vengono fatte non viene fatta la manutenzione. E soprattutto poi c'è una realizzazione per tratti e non una programmazione e una realizzazione per tratti consecutivi dei riciclabili, per cui anche la nostra Alpe Adria oppure la Trieste-Venezia, ci sono dei tratti realizzati anche bene e poi dei tratti da completare. Eppure la Corte dei Conti dice che sono ingenti le risorse messe a disposizione. Ma non vengono usate. L'idea che io mi sono fatta è che qui non c'è una cultura, non si crede che queste cose servano. Perché a fronte di risorse, io ho notato anche Gorizia sarà la capitale della cultura, avevamo proposto una ciclovia in analogia anche a come ha fatto Bergamo-Brescia, città della cultura italiana nel 2023, per l'uso quotidiano. Se noi abbiamo fatto qualcosa in regione, quando andiamo a fare il confronto con dei luoghi in cui hanno iniziato 50 anni fa, dopo la prima crisi energetica, perché due sono gli step, la prima crisi energetica negli anni 70 e Rio de Janeiro nel 92, dove si è sancito che bisogna assolutamente ridurre l'inquinamento. Ma paesi come la Danimarca, per esempio, che hanno iniziato 50 anni fa, loro stanno realizzando le superstrade ciclabili. Scienza e formazione possono contribuire efficacemente allo sviluppo del partenariato strategico tra Italia e Africa, anche alla luce del nuovo piano Mattei per l'Africa promosso dalla Presidenza del Consiglio. Lo dimostra il Friuli Venezia Giulia, che con le numerose esperienze maturate e le storie di successo può rivestire un ruolo centrale per approfondire le già fruttuose collaborazioni. E quanto è emerso dalla conferenza annuale del SIS-FVG, il Sistema Scientifico e dell'Innovazione del Friuli Venezia Giulia, tenutosi ieri a Trieste in area Science Park, che ha esplorato proprio le connessioni tra cooperazione internazionale e diplomazia scientifica. In occasione dei 100 anni dell'Università di Trieste inizia oggi una 2 giorni sul rischio idrogeologico, un evento a cui partecipa tutta la comunità italiana dell'idraulica e delle costruzioni marittime. Domani alle 14 ci sarà anche una tavola rotonda aperta al pubblico a cui parteciperà il premio Nobel per l'acqua 2023, il professor Rinaldo. L'Università di Udine invece ha ospitato un incontro sui cambiamenti climatici, la gestione delle acque e la difesa del suolo. Sono stati oltre 130 gli studiosi di gestione delle acque e di difesa del suolo che si sono confrontati all'Università di Udine al convegno dal titolo La gestione delle acque in condizioni di emergenze climatiche, la risposta della comunità idrologica al territorio. Presentati a Palazzo di Topo Wasserman i principali risultati della ricerca scientifica italiana e internazionale nell'ambito della gestione delle risorse idriche e nella previsione di prevenzione degli eventi idrologici estremi. L'incontro rientra nelle giornate dell'idrologia organizzata dalla Società Idrologica Italiana in collaborazione con il Dipartimento Politecnico di Ingegneria e Architettura dell'Ateneo Friulano. Elena Tot, Presidente Società Idrologica Italiana. Cerchiamo di capire cosa si può immaginare per il futuro, perché è necessario, come per tutte le opere ingegneristiche, ragionare già in anticipo e quindi chiaramente questa emergenza anche climatica ci richiede di approfondire gli nostri studi in un'ottica appunto di variazioni attese. Acqua come risorsa ma anche come elemento di criticità per i territori e le popolazioni. Elisa Arnone, docente dell'Università di Udine. I convegni scientifici appunto hanno come obiettivo proprio quello di studiare la fenomenologia e di mettere a punto altre metodologie. Non è una risposta appunto semplice. Però ecco, questa unione, no, tra enti che devono poi gestire nella pratica e la comunità scientifica mira proprio a quello, a trovare delle soluzioni, diciamo, all'avanguardia. Udine, Giovanni Tormina, TGR Friuli Venezia Giulia. Siamo allo sport. Calcio: Gerard Deulofeu annuncia un momentaneo addio all'Udinese attraverso il canale ufficiale Instagram del club bianconero. Si tratta di una decisione consensuale presa con la società per poter continuare a dedicarmi al mio recupero nel miglior modo possibile, scrive l'attaccante spagnolo sui social, ma non si esclude un suo ritorno al termine dell'infortunio. Insieme abbiamo deciso che quando nei prossimi mesi sarò guarito al 100%, sarà il momento di tornare a far parte della squadra, scrive ancora il calciatore. Le memorie di un emigrante, soldato della Prima Guerra Mondiale, raccolte dal nipote che porta il suo nome, diventano il diario di Gioacchino Marino Francescutti, pubblicato per la collana Testimoni di E Fasce, l'associazione che mantiene i contatti con i pordenonesi emigrati nel mondo. Alle 20:30 a Palazzo Burovic di Casarsa della Delizia, il nipote racconterà come ha ricucito la memoria del nonno. Sentiamo allora in merito la vicepresidente di E Fasce, Luisa Forte. Questa raccolta di memorie è come un ripercorrere la sua vita negli anni dell'emigrazione, ma anche negli anni della sua esperienza come soldato durante il primo conflitto mondiale. Descrive in maniera così precisa e dettagliata ora, giorno, incontri, eccetera, che evidentemente le memorie sono costruite sulla base di un diario vero e proprio. Chi ha raccolto l'eredità di questo libricino? L'ha raccolta il nipote, che si chiama come lui, Gioacchino Francescutti, e lui si pensava mica proprio di trascrivere queste memorie. Le memorie di un emigrante diventa un libro della collana Testimoni, pubblicata appunto da voi di E Fasce. Com'è possibile accedere a questo libro? Si può consultare online sul nostro sito www.efasce.it e si può avere anche durante la serata di questa sera, è disponibile in forma gratuita. Online troviamo anche il libro precedentemente pubblicato, che tratta di un'altra storia di un altro emigrante pordenonese. Giacomo Magnago, il titolo è Un friulano alla campagna di Russia, dove con frasi semplici ma molto molto significative rende l'idea di che cosa vuol dire essere un soldato durante la Seconda Guerra Mondiale nella campagna di Russia. Alle 7:45 minuti cominciamo la nostra rassegna stampa di oggi dalla prima pagina del Piccolo, edizione di Trieste. Doppio colpo della procura giuliana ai Passer, stop anche al traffico degli afghani. La rotta balcanica dei cinesi, dall'Asia con l'aereo in Serbia, poi fino a Trieste in SUV, prima di finire schiavizzati al lavoro. Il benvenuto a Miramare per la cena di gala del G7 dell'istruzione. Il prologo ieri a Lignano Sabbiadoro con il via al vertice Young, 4 giorni dedicati all'istruzione. Papa, le piazze pronte e le colonnine blu non verranno rimosse, troppo costoso rimuoverle, e così alla fine le lucette blu rimarranno lì dove sono. Park Ponterosso sulla revoca Riccesi perde la causa, l'ultimo atto del contenzioso tra l'imprenditore edile e il comune. Palazzo Spada dice no al risarcimento, legittimo il provvedimento del comune, sono passati 25 anni. A centropagina poi la fotonotizia: generali senza assicurazioni, nuovo nome in borsa, cambia la denominazione del titolo della compagnia da generali ass a generali. A partire dal 1 luglio dalla denominazione scompare la parola che aveva sempre connotato il settore. Philippe Donnet dice una decisione coerente, siamo da tempo infatti un gruppo finanziario. Muggia festeggia i suoi santi patroni con la processione, Giovanni e Paolo portati in processione, messa celebrata in Duomo e poi il corteo da Piazza Marconi. Il Messaggero Veneto, edizione del Friuli, apre con le dichiarazioni del giovane che ha sferrato il pugno all'imprenditore giapponese. Dice: non volevo ucciderlo, non avrei mai pensato ad una cosa del genere. Ecco, parla così per la prima volta dopo la rissa di venerdì notte che ha causato la morte di Shinpei Tominaga. Al centro la fotonotizia sui provvedimenti anti-alcol, pattuglie e stop all'alcol, via ai divieti in stazione. Capocronaca di Udine, sempre più under 30 assumono stupefacenti. Sono circa 2.700 i casi seguiti dal Dipartimento di Salute Mentale delle dipendenze. Altri 1.800 pazienti combattono invece contro l'abuso di alcol. Il Gazzettino del Nord-Est, al centro della prima pagina, pubblica la foto di Tominaga, pugno killer, poi è uscito a fumare, questo il titolo. Accusa di omicidio preterintenzionale per il 19enne. E sempre in prima pagina l'intervista alla mamma di Patrizia, una delle due giovani donne travolte travolte dalla piena del fiume Natisone. Dice: nel cellulare di mia figlia la verità sul Natisone, e fa pressione perché si faccia luce sulla macchina dei soccorsi. Nella pagina del Friuli l'apertura è per la città a lutto per la morte di Tobinaga. Il presidente Federiga dice: fare giustizia per la sua famiglia. Il vescovo parla infine ai ragazzi: dovete ritrovare la strada giusta. Dal Piccolo, edizione di Gorizia e Monfalcone, anche qui la cronaca: 5 agenti aggrediti da un detenuto alla casa circondariale, prognosi dai 10 ai 35 giorni, la denuncia del SAP, protagonista una persona con evidenti problemi psichici. Maxi piano asfaltature, investiti 2 milioni e mezzo per rifare 17 strade in evidenza, la dissestata via Brigata Re, via Leoni e la rotonda divisione Gorizia. La giunta ha approvato il progetto esecutivo, cantieri aperti da settembre. A centro pagina poi la fotonotizia: seconde case e affari, la calata degli austriaci a Grado, il mercato immobiliare e lo storico legame con i turisti d'Oltralpe. E poi la storia di Anna Maria, a 80 anni affronta l'esame di maturità, l'orale al corso serale sociosanitario del Cossar da Vinci. Ho iniziato per gioco, dice, la conoscenza rende liberi e magari ora mi iscrivo anche all'università. La Guardia di Finanza al centro della prima pagina del Messaggero Veneto, edizione di Pordenone, anche qui la piaga del caporalato. In basso lo chef Bello conquista il web da Maniago a Londra, dove adesso vive. Il suo profilo Instagram Cooking with Bello conta 1,5 milioni di follower, è la storia di successo del giovane Angelo Coassin. Poi il capocronaca di Pordenone del Messaggero dice: il caso di Villa Ottoboni, da sede del G8 a ricovero di fortuna. È un albergo a 4 stelle chiuso ormai da anni, i portici sono usati dai senza tetto, i residenti stanchi chiedono al comune e alla proprietà maggiori controlli. Il Gazzettino del Nord-Est, nella pagina di Pordenone, apre con il grido d'allarme del comandante della finanza Davide Cardia: in alcuni casi le condizioni dei dipendenti non sono decorose, quello che viene realmente leso, dice, è lo stato di diritto, che del lavoro fa il pilastro principale del nostro vivere civile. Al centro pagina la vignetta di El Baxo: crolla la diga, il dramma annunciato dall'IT Alert. L'area prescelta doveva essere quella dello Spilimberghese, ma alla fine ieri gli alert rispetto al cedimento simulato della diga hanno interessato anche il maniamento maniaghese. Alcuni appuntamenti di oggi in regione: alle 17.30 a Trieste, presso l'auditorium del Salone degli Incanti di Riva Nazario Sauro, in occasione del 25° anniversario della fondazione dell'Università del Caffè, esperti, autorità e rappresentanti dei paesi G7 e delle organizzazioni internazionali dialogheranno sulla centralità della formazione professionale nel settore della produzione del caffè, mettendo in evidenza il ruolo dell'istruzione e della formazione nel contrasto alla povertà nei paesi in via di sviluppo e nell'affrontare le sfide della sostenibilità e del cambiamento climatico in ambito agricolo. Lignano Sabbiadoro ospita da oggi fino a sabato la 40ª edizione del premio Hemingway. L'incontro con il vincitore di questa edizione, l'urbanista veneto Francesco Finotto, questa sera alle 20 al Centro Congressi Cursal, che inaugura l'evento. Un'occasione per celebrare anche i 70 anni dal conferimento del premio Nobel al grande scrittore statunitense Hemingway. Tanti premiati, citiamo la premio Nobel per la pace Irina Scerbakova, scrittrice russa, lo psichiatra Vittorino Andreoli e l'ormai celebre professore della fisica che ci piace, Vincenzo Schettini. Fra gli ospiti ci sarà anche il nipote di Hemingway. Gorizia presenta alle 15 a Palazzo Attems il progetto che affida al grande fotografo statunitense Steve McCurry, 74enne, celebre il suo ritratto della ragazza afghana con i grandi occhi verdi, la campagna fotografica su Gorizia e Nova Gorizia, per documentare le due città, con Termini eletta capitale europea della cultura 2025. Con lui altri due fotografi di fama mondiale, il ravennate 53enne Alex Maioli e la 69enne Meta Crese da Lubiana. Alle 20.30 all'Auditorium Zotti di San Vito al Tagliamento inizia lo spettacolo Riconoscenza, che unisce le conoscenze scientifiche di Mauro Ferrari, pioniere della nanomedicina, oltre che sassofonista, e la musica di Piero Sidoti, cantautore, attore e professore di scienze, per dimostrare l'interazione proprio fra scienza e arte. Dopo il successo al Teatro Nuovo Giovanni da Udine, i due artisti tornano con canzoni e dialoghi sulle ultime scoperte scientifiche. Il ricavato della vendita dei biglietti finanzia l'Istituto di di ricovero e cura a carattere scientifico Medea in provincia di Lecco. Il Comune di Palmanova invita i cittadini al Teatro Modena dalle 20:30 per informare sulle opere pubbliche avviate e sui cantieri in partenza nell'anno. 34 gli interventi in corso per un totale di circa 60 milioni di euro di spesa. Per il sindaco Tellini e il vice sindaco con delega ai lavori pubblici Luca Piani è importante informare i cittadini sull'andamento delle opere e anche spiegare perché alcune hanno subito dei ritardi. Trasparenza e condivisione sono un elemento imprescindibile nel rapporto con i cittadini. Musica jazz e swing a Marano Lagunare da questa sera fino a domenica con Borghi Swing, l'anteprima di Udine Jazz. Tutti i concerti sono ingresso libero. Proseguono a Udine e a Trieste gli eventi della nona edizione di Festival Estivo, Festil, Festival Estivo del Litorale. Ospite uno tra i più apprezzati autori e attori di teatro, Mario Perrotta, con il suo spettacolo Come una specie di vertigine, Il Nano, Calvino, La Libertà, al Teatro Palamostri a Udine, giovedì alle 21 in collaborazione con Teatro Contatto Estate, e in replica a Trieste venerdì al Rossetti. Per gli incontri con l'autore e con il vino al Palapineta di Lignano alle 18:30, lo scrittore veronese Matteo Bussola presenta La neve in fondo al mare di Einaudi, un libro sulla fragilità adolescenziale, mostrando quel che si prova davanti al dolore di un figlio. Radio Rai per il Friuli Venezia Giulia andrà in onda su questa rete dopo il GR1 delle 11 con la presentazione dei programmi regionali e le anticipazioni del giornale radio. A seguire la rubrica in friulano WUF Velindì con la squadra di calcio del Friuli che partecipa al campionato europeo delle lingue minoritarie. Alle 11:19 l'appuntamento con anziani, anzi no, alle 11:55 andrà in onda Né Stato Né Mercato con Alessandro Sartori, psicoterapeuta e presidente della comunità La Tempesta di Gorizia, Ilaria Papandrea, psicoterapeuta, e il filosofo Pieraldo Rovatti. I programmi musicali tornano poi alle 13:29. Ed è tutto per questa prima edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia, redatta e condotta da Francesca Terranova e Giorgio Bearz, con la collaborazione tecnica di Bruno Montevecchi e Riccardo Stoic. Ha collaborato in redazione Cristina Polselli. Noi ci risentiamo con la seconda edizione del GR alle 12:30. A tutti voi l'augurio di una buona giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.